edizione. L'informazione del mattino. Ed eccoci anche questa mattina, lunedì 24 ottobre, all'avvio di prima edizione. Ancora buona giornata da Anna Migliorati e questa mattina vi porto subito negli Stati Uniti con un occhio alla TV, perché come vi dicevo già da poco, si è conclusa sugli schermi americani un'attesa intervista, quella alla CBS, di Walter Jackson, l'autore della biografia di Steve Jobs. Allora eccola. And then they do a biopsy and they're very emotional. They say this is good. Le rivelazioni più shock sono quelle attese sul cancro di Steve Jobs, sulla sua volontà di non volersi curare. Quando ha fatto la biopsia gli hanno trovato un tumore che cresceva del 5%, poteva essere curato, ma lui non ha voluto curarsi, ha voluto provare a morire. Queste le parole di Walter Jackson poco fa alla CBS. Il suo libro uscirà oggi, lunedì 24 ottobre, prima del previsto anticipato per la morte di Steve Jobs. Nella sua intervista ha parlato anche d'altro, dei rapporti di Steve Jobs con la politica, nel pieno, ricorderete, del Monica Lewinsky Gate. L'allora presidente americano Bill Clinton chiamò l'amico Steve Jobs nel corso di quella conversazione a tarda ora, ha raccontato ora il suo biografo. Jobs disse al presidente Clinton: non so se tu l'abbia fatto o meno, ma nel caso fosse vero lo devi dire al paese. Senza peli sulla lingua, Steve Jobs non risparmiò critiche neanche a Barack Obama. Con le sue previsioni sul futuro della Casa Bianca, sarai presidente per un solo mandato, gli disse pochi mesi fa Steve Jobs a Barack Obama. Vero o meno, questo è il racconto, l'avete sentito, del suo biografo Walter Jackson alla CBS poco fa. Il libro uscirà oggi con tutti i racconti e le rivelazioni, ma noi intanto ve l'abbiamo già fatto sentire. Spazio per la viabilità, poi la rassegna stampa. Prima edizione. Grande attenzione all'economia, grande attenzione alla crisi. Questa mattina naturalmente sui quotidiani che aprono tutti sostanzialmente sullo stesso tema. Dopo il vertice del fine settimana a Bruxelles, che doveva essere decisivo, lo è stato un po' meno per la crisi europea, ma soprattutto ha visto bacchettata più volte l'Italia. La Repubblica, la prima pagina di questa mattina, Unione Europea, ultimatum a Berlusconi. Bruxelles chiede al governo che entro 3 giorni presenti un piano di misure su crescita e debito. Forse oggi il Consiglio dei Ministri, sono convinto che Bossi capirà, dice Berlusconi. Ironia di Sarkozy e Merkel sul Premier. Il Cavaliere sì alla riforma delle pensioni. La Stampa, Unione Europea, ultimatum al governo, subito interventi sulle pensioni, l'età può salire a 67 anni. Il Messaggero, anche qui stessa apertura, Europa, ultimatum a Berlusconi, impegni scritti a Entro mercoledì. Il Corriere della Sera va alla sostanza delle misure attese, si andrà in pensione a 67 anni. Questo è il titolo questa mattina del Corriere della Sera. Berlusconi annuncia riforme, l'Europa chiede entro mercoledì misure coraggiose per crescita e debito del pubblico. 10 proposte a costo zero per dare una scossa al paese, la ripresa possibile, è il commento di Alberto Alesina e Francesco Giavazzi questa mattina sul Corriere della Sera. Il Sole 24 Ore del lunedì. Censimento di spese e patrimoni, la lotta all'evasione sorveglia la congruità del tenore di vita. La notizia che dà questa mattina al Sole 24 Ore è che domani l'agenzia presenterà il software, perché dalle dichiarazioni fiscali arriveranno i dati per alimentare il nuovo redditometro. E ancora statali, ancora sotto tiro, scrive ancora il Sole 24 Ore del lunedì, dalla Grecia alla Gran Bretagna, cura pesante per il pubblico impiego. Tagli nella legge di stabilità e altri attesi nel 2013. Così il Sole 24 Ore del lunedì. Oltre alla crisi, di cui parleremo e molto anche noi oggi a Radio 24, ci sono altre notizie, sostanzialmente due, che campeggiano sulle prime pagine dei quotidiani. Una è la morte shock di Simoncelli in pista al Gran Premio di Malesia, ne parleremo tra poco. L'altra è il terremoto in Turchia. Guardiamo dalla prima pagina della Stampa: al terremoto in Turchia si temono 1000 morti, in Anatolia crollate decine di edifici. Terremoto shock in Turchia, città distrutte, scrive anche il Messaggero. Il Corriere della Sera punta l'attenzione invece su un voto atteso, non quello dell'Argentina che abbiamo sentito poco fa e cui risultati sono arrivati nella notte, quindi non li troverete sui giornali di questa mattina, bensì quello in Svizzera. I populisti di Blocher arretrano in Svizzera, così il taglio centrale del Corriere della Sera questa mattina. La destra xenofoba resta prima, salgono Verdi e Borghesi. Le elezioni federali in Svizzera, per la prima volta in 20 anni, leggiamo dal Corriere della Sera, la destra xenofoba, che pure resta prima, non guadagna posizioni in una tornata elettorale. E poi ancora, anche qui sulle prime pagine praticamente di tutti i quotidiani ci sono le immagini, la sequenza dell'incidente a Sepang per Simoncelli. Ma noi già vi vogliamo portare, prima di parlare di questo, alla giornata di oggi, perché questa mattina si tornerà in un'aula di tribunale. Al processo Mills, ricorderete, per corruzione in atti giudiziari a carico di Silvio Berlusconi, infatti questa mattina è in programma l'interrogatorio dell'ex coimputato, vale a dire l'avvocato inglese già condannato in primo e secondo grado a 4 anni e poi assolto dalla Cassazione per prescrizione. In aula è atteso anche Berlusconi, che ha preannunciato l'ipotesi di sue dichiarazioni spontanee probabilmente venerdì, salvo ovviamente che non ci siano consigli dei ministri, come sentivamo per la questione crisi, ma comunque tra la sentenza di primo e secondo grado, intanto l'avvocato inglese che oggi parlerà in aula era stato intervistato nella rubrica Storiacce da Raffaella Calandra, e allora vi facciamo risentire le sue parole. Sì, perché ovviamente sarebbe assurdo, completamente illogico, se uno era condannato e l'altro assolto. In che senso? Sarebbe assurdo. Considerando che si parla appunto di corruzione. Sì, esattamente, ma siccome io so, come un fatto matematico, che il dottor Berlusconi non ci entra assolutamente in questa cosa, non capisco come è possibile che lui possa essere condannato. Tutti in Italia conoscono la sua famosa lettera, il gift di Mr. B. Che cosa ci dice? Sì, quella lettera non contiene nessuna ammissione che io ho ricevuto soldi dal signor Berlusconi, no, né contiene nessuna ammissione che io abbia dato un'evidenza falsa, non contiene nessuna evidenza della corruzione. E vedremo se ripeterà le stesse parole oggi in aula. Ma eccoci alla Gazzetta dello Sport. Vi dicevo, la morte di Simoncelli su praticamente tutte le prime pagine dei quotidiani, con immagini davvero scioccanti. Scegliamo la prima pagina della Gazzetta dello Sport, che è dedicata quasi interamente a Simoncelli questa mattina. 1987-2011, SIC, così la Gazzetta dello Sport. Il dolore di tutti, scrive Andrea Monti, i giovani eroi anche nello sport incontrano il loro destino, nel fragore della battaglia le accompagna il tuono dei motori e l'urlo della folla, quando tutto si compie, il silenzio degli dei di Olimpia è il loro sudario, non c'è parola di fronte al corpo esanime di Marco Simoncelli disteso sul campo di Sepang, così la Gazzetta dello Sport. Dario Ricci ha intervistato per noi la leggenda intanto del motociclismo italiano, Giacomo Agostini, allora sentiamo le sue parole. Purtroppo non ci sono parole, una sfortuna incredibile, perché la caduta era una caduta come tante fanno durante le prove e durante un Gran Premio, solamente che la sfortuna ha voluto che la moto continuasse la curva, cosa strana, che di solito quando si cade la moto prende la traiettoria e esce di pista, invece la moto, pur strisciando per terra con la gamba sotto del povero Marco, l'ha trascinato di nuovo facendo la curva, arrivando gli altri due dietro, non hanno potuto evitarlo purtroppo. Ecco, qualcuno ha voluto trovare le responsabilità dell'incidente nell'elettronica o nelle gomme? Ma sono tutte cose, la gente purtroppo vuol cercare a tutti i costi qualcosa, sarei io il primo se ci fosse una colpa di qualcuno. Ripeto, una caduta di queste si fanno tutte le domeniche, ci si rialza e si riparte. Purtroppo questa volta non è stato così. Certo, si cade spesso per le gomme, che oggi devono avere delle gomme. Tutti i piloti vogliono la gomma che dal primo giro all'ultimo mantengono una certa performance, e per far questo bisogna fare delle gomme particolari. Questo è un po' il pilota che chiede, le aziende che fanno le gomme seguono le richieste. Certo, forse sarebbe meglio invece avere delle gomme che magari dopo metà gara si degradano un po', che è una cosa normale come in tutte le cose. Faccio l'esempio: quando beviamo un bicchiere di vino, d'altronde alla fine non è che sia ancora pieno, pian piano il vino cala, quindi è giusto, il motore che perde un po' di potenza, i freni perdono un po', e anche le gomme è giusto che perdono un po', poi il pilota si adegua nella circostanza. C'è un ricordo personale di Marco? Ma una cosa particolare, sì. L'ultima volta ci eravamo visti, mi ha detto: già, con quest'inverno vengo a trovarti a Bergamo perché ho la fidanzata a Bergamo, e così mi porterai a mangiare la pizza. E ho detto: beh, a Bergamo ti farò mangiare o il casonsei o la polenta taragna. Purtroppo non potremo far più questo. Così l'intervista a Giacomo Agostini del nostro Dario Ricci. Torniamo sui giornali, sulla prima pagina della Stampa. L'illusione dell'immortalità, scrive Giuseppe Culicchia. Sentirsi immortali è forse da sempre tra le prerogative della giovinezza e anche tra i privilegi. Scrivo forse perché nell'età classica, quando gli antichi si riferivano agli uomini, li chiamavano mortali. Riferimenti e molti all'età classica, allo sport antico nei commenti di questa mattina, ma per ricordare un ragazzo morto nel MotoGP. Dario Ceccarelli, buongiorno, qui con me, perché gli incidenti nello sport, ahimè, non sono così rari. Sì, a volte ci si dimentica che non si è immortali, soprattutto negli sport a due ruote o a quattro ruote dell'alta velocità, quelli che hanno a che fare con l'asfalto, comunque, quelli dove alla fine se uno cade a un impatto violento. Il motociclismo ha fatto molti progressi in questo senso, nel senso che una volta si moriva molto di più, perché non c'era l'uscita di fuga, quando si cadeva si rischiava di sbattere la testa e farsi male contro le transenne, eccetera. Però la morte può essere sempre in agguato, e forse ce ne dimentichiamo un po', perché in televisione poi ormai si vedono tutte queste cronache sempre molto così, un po' c'è la suspense, l'emozione, però sembra che sia un po' come giocare con l'elettronica, no? Invece in realtà c'è gente in carne ed ossa che rischia la pelle ogni giorno. È successo anche, non so, al Giro d'Italia, adesso parlo di un altro sport a due ruote, quando è morto Lanza, che improvvisamente quella che era così una giornata di festa, di sport, si è tramutata in un attimo in una giornata di lutto. Purtroppo, ecco, noi ci dimentichiamo un po' di questo fatto, e del resto lo sport è anche un po' così, nel senso che non si può neanche correre sempre con l'idea che ci sia la morte dietro l'angolo. In questo senso Simoncelli era proprio il pilota romagnoglio per eccellenza, quelli che chiamano il patac, perché lo dico con tutto il rispetto e l'affetto per una persona che si è andata via, nel senso che era uno spericolato, e perché devono essere così i piloti? Non c'è la possibilità che uno sia calcolatore. Infatti è morto anche, avrebbe potuto mollare prima la moto, invece l'ha tenuta fino all'ultimo, per quello gli sono andati addosso, e questo fa così, dà proprio al segno la cifra di questo pilota con questa testa di capelli che sembrava così una medusa e che ispirava simpatia perché aveva quella capacità di prendere la vita di petto, di coraggio, che piace a tutti, agli sportivi, ai romagnoli, a tutti quelli che amano questo sport. Resta il dolore ovviamente per la morte di un ragazzo di 24 anni, il rompipallone sulla Gazzetta dello Sport questa mattina: Gene Gnocchi, tutti avremmo voluto avere i tuoi riccioli, e qui siamo arrivati. Grazie Dario Ceccarelli. Prima edizione. Puntualissimi, 6:35 minuti di questo lunedì 24 ottobre, ci aspetta Italia in controluce. Italia in controluce. Buongiorno a tutti, da Daniele Biacchissi. Che cosa sono i certificati antimafia? Servono davvero a contrastare le infiltrazioni delle piovre nella nostra economia? Qualcuno li vuole perfino abolire, ma è giusto? Il reportage di Cristina Carpinelli. La semplificazione sembra il mantra dei nostri imprenditori, che la desiderano più di ogni altra cosa. Qualche mese fa il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Renato Brunetta disse questo. La semplificazione, perché mai le imprese e le famiglie devono ancora fornire certificati alla pubblica amministrazione che li ha già in casa? Si dirà basta tutto questo, basta il DURC, basta i certificati antimafia. Dunque Brunetta aveva lanciato un quesito e intanto già detto basta alle certificazioni antimafia. Emanuele Fiano è presidente del Forum Sicurezza del Partito Democratico. Io solo una frase voglio dire sulla proposta del ministro Brunetta, che è veramente pazzesco che in questo paese, dopo 4 anni di governo nel quale è stato istituito un ministero della semplificazione, e voi a Radio 24 avete il polso del fatto che le imprese non hanno ricevuto nessuna semplificazione in questi 4 anni di governo, eppure ce ne sarebbe bisogno. Singolare che quando si annuncia una semplificazione nella dotazione di certificazione da parte delle aziende, si parta proprio dallo strumento che è fatto per cautelare le aziende buone e andare a colpire le aziende che invece sono marci. Si parte da qualcos'altro. Il paese è pieno di norme e di regole ridondanti. Ma in questo paese, dove la mafia continua a fare affari e aprire negozi, aziende, gestire qualsiasi cosa faccia profitto, ha senso che continuino ad esistere i certificati antimafia? Ma assolutamente sì, sono un primo filtro, anche se ovviamente non esaustivo, per le imprese che partecipano agli appalti, che devono comunque dichiarare la condizione della loro azienda e che sia priva ovviamente di coinvolgimenti con la criminalità organizzata. Penso che le imprese e le aziende che partecipano agli appalti per opere pubbliche dovrebbero essere in grado di dimostrare compiutamente tutti i componenti, tutti i soci del loro capitale azionario e le forze inquirenti in grado di verificare che nessuno dei componenti di questo capitale azionario sia al centro di trasferimenti patrimoniali o immobiliari che hanno a che fare con organizzazioni criminali di tipo mafioso. Negli Stati Uniti, per aprire una società non serve altro che il capitale. Per i controlli, e lì non si scherza, ci pensa dopo il fisco americano a vedere se è tutto a posto. In più, in America ci sono meno leggi prima, ma molti più cittadini comuni pronti a far causa dopo. Dunque, più occhi che sorvegliano. Era la prima edizione di Italia in Controluce per quest'oggi 24 ottobre. Vi ha parlato su Radio 24 Daniele Biacchessi. Torniamo oggi alle 13.30 su Radio 24. Grazie a Daniele Biacchessi e ancora una buona giornata da Anna Migliorati. Prima edizione, andiamo in Turchia. Noi eravamo in casa e a un certo punto è cominciata una scossa fortissima, infinita. È durata più di 30 secondi e in casa crollava tutto, armadi, si muoveva il palazzo. Noi siamo al quinto piano, siamo proprio in centro a Vanto. E alla fine, dopo questi 30 secondi infiniti, siamo usciti di casa. Questo il racconto dell'unica famiglia italiana almeno segnalata come ad ora nella zona colpita ieri nell'est della Turchia da un terremoto devastante in una provincia montagnosa al confine con l'Iran, una zona sismica come tutta la Turchia già devastata in passato da disastrosi terremoti. 200 il bilancio ufficiale diffuso nella notte, ma si parla di oltre 1000 vittime. Io saluto il console italiano a Smirne, Simone Carta, buongiorno. Sì, buongiorno. Console italiano a Smirne è competente per tutta quest'area, anche quindi per la zona, per questa zona. Innanzitutto le chiedo, sono questi gli unici italiani nella zona, quelli che abbiamo contattato anche noi? Sì, al momento a noi risulta soltanto questa famiglia di italiani che risiede lì da tempo, mentre non ci risulta la presenza di turisti italiani nella zona. Tenga presente che generalmente le agenzie di viaggio, dove ci fossero turisti, ci avrebbero contattato immediatamente. E quindi questi dovrebbero essere gli unici. Dovrebbero essere gli unici, sì. 200 il bilancio ufficiale, però le stime sono molto, molto di più. Le immagini sono veramente impressionanti. A voi cosa risulta? Guardi, a me risulta in questo momento circa 217 morti, 100 morti a Van e 117 ad Erciz, e in più circa 1090 feriti. La stima dei palazzi crollati non è accertabile perché le fonti sono diverse, però sembrano decine sia ad Erciz che a Van, e di conseguenza è stimabile che la prima stima fatta sia abbastanza realistica, fra i 500 e i 1000 morti. Ecco, ricordiamo che nel 99, sempre grosso modo nella stessa zona, due terremoti uccisero più di 20.000 persone, quindi la zona è di quelle già pesantemente colpita. Tra l'altro sono arrivate anche offerte di aiuto subito dalla NATO, dalla Cina, dal Giappone, dagli Stati Uniti, anche da Israele, nonostante la crisi diplomatica militare che la contrappone ad Ankara. Però ad ora il presidente turco ha declinato l'offerta. Quindi stanno lavorando da soli in questo momento? Ma guarda, tenga presente questo, che generalmente il popolo turco è un popolo abbastanza orgoglioso, con un forte sentimento nazionale, e negli ultimi tempi, tra l'altro, ad esempio in occasione dell'evacuazione dei turchi da Bengasi, hanno agito con una certa efficienza amministrativa. Quindi è immaginabile che in questo momento vogliano fare da soli, fin tanto che avranno i mezzi per farlo. La mezzaluna turca è intervenuta abbastanza rapidamente e ha portato circa 1.000 tende, 4.000 coperte e 1.000 razioni di cibo, quindi è immaginabile che in questo momento facciano da soli. Dicevamo, di terremoti ne hanno avuti diversi, però è veramente impressionante che da soli riescano ad affrontare una situazione di questo tipo. All'Italia sono giunte richieste di aiuto? No, par di capire. Al momento, tramite il mio canale, no. Non sono arrivate richieste di aiuto. Come le ripeto, è immaginabile che in questo momento i turchi vogliano fare da soli e poi, quando si renderanno conto eventualmente che non ce la fanno, chiederanno aiuto, ma in questo momento stanno agendo da soli, in piena autonomia. La zona è difficile dove operare? È ipotizzabile che il bilancio cresca così rapidamente, dai 200 ai 1.000 morti? La zona è abbastanza al confine con l'Iran, non è delle più agevoli da raggiungere, anche se mi risulta che l'aeroporto sia tuttora aperto e quindi i contatti sono possibili. Tenga anche presente che in questa fase la zona non era purtroppo delle più tranquille, perché vi era fin da luglio un principio di tensione anche abbastanza forte con le forze del PKK, e di conseguenza non è delle più agevoli, però i contatti e l'afflusso di materiale vedo che sta continuando ad arrivare. E naturalmente si continuerà a scavare. Grazie, ringrazio il console italiano a Smirne, Simon Carta, per essere stato con noi. Buona giornata. Grazie, buongiorno, buon lavoro. Grazie. Voltiamo pagina, restiamo in Europa per tutt'altra crisi, vale a dire quella economica. Francia e Germania, ormai lo sapete, hanno chiesto all'Italia misure anticrisi per il rilancio economico entro mercoledì, data in cui si riunirà di nuovo il Consiglio europeo. Berlusconi ieri in serata ha annunciato l'ipotesi di vendere gli immobili di Stato, di intervenire sulle pensioni per anticipare il pareggio di bilancio. Fatto sta che il tanto atteso del vertice del fine settimana non ha dissipato i timori sulla crisi, sul futuro della Grecia, sulla situazione delle banche europee. E allora questa mattina si tornerà ancora una volta inesorabile alla prova dei mercati. E allora io saluto la nostra esperta di mercati, Deborah Rosciani, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti, buona giornata. Allora, Deborah, cominciamo a dare innanzitutto, adesso lo cerchiamo, Tokyo in questo momento è positivo, un po' come tutte le borse asiatiche, guadagna attorno al 0,5%. Come è possibile, secondo te, ipotizzare che reagiscano i mercati europei? Allora, c'è da rifare secondo me intanto un quadro di partenza della situazione, perché esattamente come aveva pronosticato ad inizio settimana scorsa la cancelliera tedesca Angela Merkel, che tra l'altro aveva anche impaurito con le sue dichiarazioni non poco le borse, lunedì scorso erano partite molto male, i vertici, le riunioni del fine settimana tra i membri di Ecofin ed Eurogruppo hanno compiuto dei passi avanti significativi per aggredire la crisi, ma nessuna soluzione che si possa ancora definire definitiva, per l'appunto. Per un fermo di questo tipo i governi dell'Eurozona, come sapete, hanno l'appuntamento di mercoledì con il Consiglio europeo, anche perché gli interessi in campo sono molti e, per usare le parole della Merkel, è tutto tecnicamente complesso. Noi ieri abbiamo, così per capire oggi come potrebbero aprire i mercati, interpellato alcuni operatori che hanno pronosticato un buon andamento e quindi un buon avvio questa mattina per le borse del vecchio continente, in attesa del vertice di mercoledì e in attesa che si sanciscano con ufficialità le intese del fine settimana. Secondo gestori ed analisti, anche l'ultimatum dato all'Italia ha alla fine un tenore positivo, perché obbliga il Paese a compiere delle scelte e il mercato preferisce sempre muoversi sulle certezze, anche quando le notizie non sono positive, ma sono piuttosto che le incognite. E infatti. Prima edizione. Deborah Rosciani, torniamo con te per cercare di capire come potrebbe essere la giornata di oggi. Un test importante che si attende anche quello per le banche. C'è l'intesa di massima per la ricapitalizzazione, ma che potrebbe succedere? Ma allora, possiamo ipotizzare che in borsa i titoli bancari possano aprire positivamente questa mattina dopo aver viaggiato per settimane sul lotto volante. Il tema della loro ricapitalizzazione, come dicevi, è stato uno dei primi temi affrontati nel fine settimana. Secondo quello che si sa, c'è un'intesa per un'operazione complessiva da 108 miliardi di euro giù di lì. È ovvio, è ovviamente una ricapitalizzazione condizionata, perché per avere questi aiuti le banche devono garantire requisiti patrimoniali anche superiori a quelli richiesti da Basilea, e quelli sono già piuttosto elevati, e questo ha portato alcuni paesi in questi due giorni a far presente che i sacrifici chiesti servono sia a tranquillizzare i mercati dal punto di vista dello stato di salute delle banche, ma al contempo bisogna capire che ruolo avranno i bilanci pubblici in queste ricapitalizzazioni. Poi non ci dimentichiamo che sulle banche pende la spada di Damocle della svalutazione del loro portafoglio di titoli greci rispetto a quel famoso taglio del 21% che si era ipotizzato in luglio. Oggi sembra certa la necessità di portare il taglio al 50, forse 60%, e siccome di questa prospettiva si parla già da diversi giorni, sembra che questa indicazione del mercato l'abbia già digerita con l'otto volante appunto dei titoli del settore bancario, per cui oggi vedremo se anche sull'onda di questa ormai più o meno certezza verso un taglio molto forte, oggi come dicevamo prima, potrebbero muoversi positivamente. Esatto, i mercati. Però Anna, lo vedremo solo oggi, siamo sempre pronti ad essere smentiti, perché abbiamo imparato che in questa crisi ogni notizia succede porta di tutto ad una reazione, esatto, completamente succede di tutto. Con te comunque ci risentiamo alle 9 puntuali con l'apertura di borsa, Deborah Rosciani, e sentiremo cosa succederà. Grazie Deborah Rosciani. A voi buona giornata. E buona giornata anche ad Alessandro Milan, che nel frattempo mi ha raggiunto con buongiorno i suoi ritagli. Tutti. Eccoci qua, i miei ritagli di giornali. Eh sì, hai visto che è tornato Peter Bescapè? L'Alpino? L'Alpino, sì, è tornato con noi. È tornato con noi, bene. Che ci racconti? Allora, dai giornali ci sono ovviamente le notizie principali, l'Europa, Sarkozy che ci ride dietro, questo è il dato di fatto, e poi ovviamente parleremo anche della morte di Marco Simoncelli, tutte notizie, visto che prima ieri hai fatto sentire la voce dell'autore della biografia di Steve Jobs, oggi c'è una sua bella intervista sul Corriere della Sera, parla del rapporto tra Jobs e Dio negli ultimi momenti della sua vita. Alcune affermazioni sono davvero impressionanti. Sì. Ha detto per esempio questa: alla fine della vita il mio timore è che ci sia solo un click, no? Quel click che rimanda anche un po' al suo mondo. Del suo mondo. E comunque una bella intervista sul Corriere della Sera. Poi ci sono anche tante cose curiose. Per esempio, lo sapevi, questo lo fa sapere il Corriere della Sera, che Madonna ha un fratello che è un homeless, un barbone. Cioè lei è piena di fanta triliardi di dollari e c'è e ha un suo fratello che vive per strada, senza strada. Casa. Sì, assolutamente. Sì. Allora ti aspettiamo con questa e con altre notizie. 7:20 puntuale alla rassegna stampa. Noi invece ci risentiamo tra pochissimo. A dopo Alessandro Milan, c'è GR24, ci sentiamo tra poco. Buona giornata da Anna Migliorati.